cammino con la carica, ci sentiamo dopo. Avanti, Robert. Sì, ciao Riccardi, io vabbè tra poco vado via anche io, no? E Bellino, lo sai che era l'altro specialista a fare le voci strane, era Luca, cazzo, Luca del Monte, era micidiale, e poi qualche volta anche Franco, però me ne accorgevo di Franco California, si metteva lui qualche volta a Tino, l'ha fatta, però Tino è confondibile la voce di Tino, ma Luca molte volte si metteva, a me non mi ha mai buttito, però uomo di gente ha fregato Luca. Sì, a Luca lo riconosco subito. Luca te ne ha accorto dal segnale, cacchio, è inconfondibile, però se magari è lontano, in un'altra casa, in un altro posto, magari con il microfono diverso, magari ti potrebbe ingannare, ma c'ha una voce troppo squillante. Quando c'ho tempo già ve lo faccio io lo scherzetto, volevo vedere se mi riconoscete. Ah, il microfono che poppa, gliela fa squillante il microfono, poppa un bel microfono di Luca. Sì, no, ma se per caso se ne va in casa della fidanzata, magari con un altro baracchino, un microfono, una cosa, magari potrebbe ingannarti, però la voce sua è molto acuta. Quando c'ho tempo già ve lo faccio io lo scherzetto. E volevo se mi riconoscete, io scommetto di no. A me l'unico che mi ha fatto proprio i bidoni è stato Antonio Grobe e Massimiliano Bulogne, perché abbassavano un bel radio e non si capiva quasi la modulazione, sembrava un bel lontano, capito? Antonio Grobe ha fuggito anche a me una volta, però poi lo scopo è. Ma perché metteva la radio bassa bassa, capito? Quindi arrivava a basso, sembrava da fuori. Anche Massimiliano ha fatto la stessa cosa. No, Massimiliano non mi butti a me, almeno difficile mi frega. No, ma basta che ti abbassi un po' la potenza. Col capo lo puoi fare, ti sposti appena appena anziché 75 te ne vai 83, appena appena, in modo che la voce sembra un po' diversa, e poi giochi col coso, con la potenza, e poi magari ci metti qualcosa sopra il microfono, vedi? Sono sicuro che vi frega. Che non sono tipo da fare scherzi così, però ti posso dire, io sono sicuro che ti frego a te Claudio, non ci credi. Sì, ma se esco normale, ma se io voglio uscire male, ti faccio vedere uscendo male, un po' di volte me l'hanno fatto, vabbè, uscendo male nel senso perché non serviva il baracchino, e mi dicevo, ma chi sei, e io alla fine glielo dicevo che ero io, però a qualcuno non riuscivo a capirlo. Eh certo, perché no? Cacchio, c'è il regolatore della potenza, poi teoricamente puoi anche disaccordare, posso cambiare antenne, posso mettere un'altra antenna, ne ho tre di antenne io, che posso trasmettere con tre antenne diverse. Il power basta toccare, No, già, ma posso usare tre antenne, anche se uscire con la grande, posso uscire con la multibanda, posso uscire con quella, come si chiama, con la cosa del ricevitore. Sì, ce n'è di muti, di roba. Se vuoi, puoi fare tante cose, puoi anche giostrare col power, abbassare e alzarlo. Io ho il gas, c'ho il power che posso alzare e abbassare la potenza, e tu finalmente perché sembra che sia questi lì e credi che sia una propagazione. Ah, io posso cambiare anche la voce, basta attacco qualche cosa, ti faccio vedere la voce è tutta diversa da quella che ho io, basta equalizzare, attenuare o esaltare tonalità, te la faccio cambiare, la posso fare anche voce di ragazzino oppure voce di tipo la Mario Manse, voce grossa, tipo la voce del padre di Claudio, di Gianni Capri 2. Vediamo se è diventato Fabio, dai. Però Luca, ti posso dire, Luca e Antonio Grode, numero uno a modificare le voci. Lo vedi, basta che fa qualche giochettino, già si può fare, dai. Fai la voce di Falcone, già. Di chi? Di Falcone. Allora, lo metto quadrato, fammi sentire il pelo. Ah, lo sai che l'ha conosciuto bene Sergio, dice che se lo ricorda benissimo, che poi amore mio, dice battiamo. Già lo so, ma sai cosa facevamo? Passavamo il microfono nelle gambe, oppure in faccia dove c'è la barba, e lui, che bel pelo che è! Ogni personaggio dovrebbe essere, mamma mia, e che squallore soprattutto, cioè a che livelli c'era arrivato. Allora Robert, per la sensibilità che ho io, ho pensato che fosse una persona all'inizio che aveva bisogno magari di un po' di affetto, di amicizia, roba del genere. Un giorno l'ho invitato ad uscire con me, è venuto con la testa bassa, tutto ben vestito, un tirato, maglietta Lacoste, tutto ben vestito, ben pettinato e cose, è venuto, siamo usciti insieme e andando a Porto Torres, ti parlo di tanti anni fa, c'era quel vascone, ti ricordi, quel vascone dove tutti lavavano le macchine prima di arrivare al bivio sorso di Bidriati, lì, prima della cantoniera, e mi sono fermato a lavarmi la macchina io lì, no? E lui è rimasto in macchina, posso alzare il volume della radio? Alza, non c'è problema, tanto non disturbi nessuno qua, io stavo lavando il vetro e lui, come mi sono inchinato, mi stava guardando dietro, e cosa che stai facendo? Si è messo a ridere. Ho detto, mi non dire nulla che ti ho portato in giro, no, non dico niente, cazzo, c'è il maracchino acceso in macchina, come è ritornato a casa, oh, sapete con chi ero, con doppio home, e tutti quanti, già cosa hai fatto, un buon Dio, questo e quell'altro, vai, non ammala, sei tu, ringhimaru. Sai che già l'hai fatto il conto, ha portato appresso, poi frequenta tutti tranquilli, tutti rispettosi, tutti bocca cucita, domani. A me ti dico la verità, un po' di fastidio me lo dava quando lo prendevano in giro, mi dava fastidio, non è che mi faceva ridere, capito? Adesso purtroppo il bullismo esiste sempre e sempre esisterà, magari adesso si sta un po' più attenti, però non ci puoi fare niente, è così, è la natura umana, c'è sempre il più forte che cerca di prevalere su più deboli. Ok, vai Claudio, avanti a te, e poi anzi, facciamo un attimino di bianco, vediamo se è rientrato Fabio, ci sei Fabio? Ehi, allora io tanto faccio un altro passaggio e poi vado via, vai Claudio. Ciao Riccardo, dai, buonanotte, ci sentiamo, avanti lo... Ciao Riccardo, sei Claudio. Sì, Claudio, scusami. Oh, yeah, Rugabu. Vabbè, scusami Claudio, ciao, ci sentiamo, buona carica quando lo fai, grazie per il QSO. Avanti lo... ciao Claudio, anche io adesso vado via pure io, dai. E concludo le trasmissioni, dai, oggi, per oggi è finita. Ok, ciao di nuovo Claudio, ben sentito, ciao Gianni Eden per te, ciao Fabio, ciao Riccardino che lo chiama Robertino, Giulio lo chiama Robertino, ancora se deve abituare l'altro, quello chiodo rugginoso, lo chiama così Massimiliano, dai, poi chi c'è? Penso Antonello, se non mi ascolta, Mario è salutato da parte mia, io faccio corretti, dai, che sono un po' stanchino. Ciao ciao a tutti, buonanotte e buon proseguo se continuate. No, Massimiliano lo chiama Claudio Arrugginito, ciao ciao. Avete parlato in tre, Claudio, me Claudio, Gianni, Claudio e Fabio. Comunque ho capito che rimane ancora un pochettino. Dai, ciao ciao di nuovo. Ciao Roberto. Ehi, avanti, Luca. Ciao tesoro. Oh. Fabietto. Va bene, accorretti anche per me. Ciao. Ci sei Fabio? Già, sono ancora di pasta veramente. Cosa? Sono ancora di pasta, ma c'è ancora la portante? No, non la sento più, ce ne deve essere andata, speriamo, se no già lo sai cosa facciamo, come l'altro giorno. Sì, sì, c'è sul canale l'altro giorno, sì. Così almeno se la prende muco dalle borsa, ma adesso ho abbassato il VAT, ho Fabio, però lo sai che il trimmer non era, come mi hanno detto, il VR13, ma era VR73 e praticamente è cambiato. Sì, deve essere una conversione. E praticamente stavo diventando scemo a cercarlo, me ne stavano uscendo gli occhi, ho messo pila, ho messo un sacco di roba per vederlo, niente, non riuscivo a trovarlo. Ascolta, ma il VR16 per che cosa serve? Siccome c'è una versione diversa, tu evidentemente, c'è da vedere, c'è da capire un attimino che versione hai e come sono fatti prima, capito? Aspetta, lo leggo nel coso. Tanto mi hanno mandato il coso, le serve. Allora, c'è scritto Love Power. Love Power, perché tu hai la commutazione di potenza quell'apparato. Cosa? Tu hai la commutazione di potenza quell'apparato. Vabbè, io adesso l'ho abbassata. Io con quello che doveva essere VR13 ho abbassato la potenza, capito? Allora, tu quell'apparato c'è la commutazione di potenza? No, no, non ce l'ho fuori. Non ce l'hai fuori, non ce l'hai fuori. Niente, c'è da capire la versione della scheda, perché la scheda si chiama EPT3600 e poi c'è un numero, che so, EPT30012, EPT360014, capito? In base al release della scheda, la mappatura di alcune regolazioni sono diverse, è diversa la mappatura. Infatti mi stavano uscendo gli occhi cercandolo, ma giudizio no che non l'ha acciato. Praticamente c'era, però era sotto un altro numero. Ho capito, ma sei importante o stai facendo un po' basso? Cosa? Sto facendo un po' basso adesso. Ma di segnale? Mi fa di sì. Quanto sono? Perché prima era attaccato. Ah, capito, no, così già arrivi bene. Sulla stazione, la certificazione sei 7. Ricordati le mie antenne però, Guarda, così attaccato, voglio sapere com'è la radio. La radio va benissimo, no bene, benissimo. Pulitissima, non sembri neanche attaccato. E se saltato su questo smitter da 7 a 9.10. Va bene. Gioiello, sicuramente va bene l'antenna, senti io tanto bene la caramella funziona bene. Allora sono promosso, ho fatto un bel lavoro. Io adesso vorrei attaccare l'altro perché devo mettermi le cuffie, in questo qua è antipatico mettersi le cuffie perché se la sento solo da una parte, dovrei mettere il riduttore ma non ne ho. Invece nel Galaxy sento da tutte e due le parti e metto le cuffie perché con la notte è un po' un casino, se ti sento rompo le scatole. Però la facevo io da bambino, quando usavo le cuffie del Walkman nelle radio, tipo quella di 70, Grundig, no? Quelle radio monofoniche con l'altoparlante ovale davanti, la banda sopra, facevo un po' sotto il spinotto della cuffia, un po' sotto, cioè lo mettevo per terra e ci mettevo il piede sopra, lo facevo un po' sotto e poi lo mettevo non del tutto entrato nel jack e riuscivo a ascoltare tutti e due, pensa a Turumacu. Bene, buonasera. Vabbè, cos'era una minaccia questa buonasera? Ciao fa. Come stai? Tutto bene? Ehi, una minaccia, non so perché. Noia. Ma Gianni ti ha mollato così, in punto in bianco. No, deve cambiare apparato, perché le cuffie che non entrano in uno, che non sentire il doppio dell'altro, nell'altro non si può attaccare, poi di tutto fatto precisino, perciò al tuo ordine, la prestazione, per non farci sentire le vicende, insomma. Cambia tutto, vorrei mettere le cuffie. Va bene. E tu, cosa stai combinando? Niente, vi stavo ascoltando, adesso, vabbè, stavo finendo di mangiare, dai. Adesso mi sono seduto al PC e vi stavo ascoltando, sono entrato a salutare. Ah, bene, anche a me piace salutare quando ascolto. Sono gli ascoltori che rimangono lì, zitti, e poi si segnano anche i chiarimenti, no? invece io mi ascolto per un po', poi mi viene da dire, beh, sono anch'io, ti ascolto, ciao, capito? Di dirgli che insomma io comunque ci sono, ti ascolto. No vabbè, io è rara la volta che non entro, a meno che c'è, non c'è un discorso che mi interessa oppure non ne ho voglia, ci sono tante cose dai, da valutare. Niente, sono entrato perché ho visto che Gianni ha fatto più del dovuto bianco. E magari ho detto, ma sicuramente ho mancato la corrente, sai, perché a me capita, non è che molte volte sto parlando, sto facendo un questionario, a un certo punto guardo il dito che è sempre pressato nel mic, però non c'è corrente, quindi ho detto, vabbè, stavo parlando da solo. Va. Io cambiando radio, ti ciao, buonasera. Eia, ciao già. No, ma siccome Fabio ti ha fatto una stavo parlando con te, a un certo punto tu non hai più ripreso, ho detto, ah, sicuramente ho mancato la corrente, oppure prima ha detto Fabio che stavi cambiando radio. Io sì, mi è più comoda questa di notte, tipo che ci metto le cuffie, senta tutte e due le parti, l'altra dovrei mettere un riduttore e non ce l'ho, dai. No, mi ascolti? Una cosa a parte, non ho, sinceramente, vabbè, tu hai la postazione lì, in quella postazione lì, io sono in salone e quando spengo, non è che... Sì, no. Nara. Oh, ciao. Dammi il controllo, fai favore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come sta arrivando? Guarda, stai arrivando bene, poc'anzi ho sentito e quando hai abbassato il watt di entrata hai aumentato una tacchetta in più, ma non superi i 9,20. Va bene, no, già mi basta, ma stai avanti, è avvenuto 2001 questo, con Mario Manser. Avanti, aspetta, scusate un attimo. Bene, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. No, bugia mia, li superi alla grande, sì, 9,30. Sono contento, ti ringrazio, ma vuol dire che la parete mai rimasta, va bene. Vabbè, domani glielo riporto a casa sua. Allora, là, ci sentiamo, vabbè, 10 minuti che sto facendo alcune cose, sto mangiando e poi ci sentiamo dopo, là. Diciamo che hai un po' di rumore di vento, ma insomma, un po', a mio parere disturbano, però io l'evento lo odio, nel senso che quando sono troppo forti che la modulazione non riescono a tapparlo, allora danno fastidio. Comunque sei 9,30, con 800? Sì, quasi 800 sono. Però c'è un bel evento fastidioso a mio parere. Ok. Marco, da dopo là, ci vediamo fra un po' là, ci sentiamo dopo là. Io, non ti preoccupare, va bene. Guarda, non voglio segnare, sei più forte di Claudio, figurati. Siete la ramazzotta. Fabio! Raccondo un attimo che sono al telefono, là, 2 minuti. Va bene, ciao Antonio, ciao. Riprendi fra. Ciao, devi ricambi. Ti volevo chiedere, ma per quella cosa l'hai chiamato? Negativo di cazzo, guarda, mi ha sentito telefono occupato dalla sera. Adesso c'è questo qua con i ruti, con il corbo, non sento più a Fabio. Ma devo riuscire a chiamarlo. Ho capito, sì, perché non te lo puoi perdere. Infatti era molto interessante. Lo trovo interessante. È una cosina che se ritorna a casa mi fa piacere. Così, perché c'era già a casa quella, capito? Fabio, solito canale, vai! Caffa! Oh, che canale? Ma vi state spostando tutti, non c'è più nessuno sul 10. Thank you. chiudendo. Ciao, ti aspetto, ti faccio chiamare a Giuseppe due minuti, aspetta due secondi, ti faccio chiamare a Giuseppe. Non ho capito, da Giuseppe, non ho capito niente. 66 qui lei. Io lo sento Giuseppe. Prova Giuseppe, ma Leoncino. Prova adesso. Prova un po'. Ti lo senti da vicino? Mi ha un po', sì. No, non lo sento. Sono... Ti sto aspettando poco fa, me stavo andando, ma aspetta, ma non sento niente. Cioè, mettiti a posto il coso, due minuti l'antenna. Dopo come fai tu alla trovata, allungala. Metti il tipo lungo. Arrivati, siamo. Allora solo, allora riparlo qua e riparlo pure qua, così riparlo insieme, ti vedo. Chi so se gratta nei ribiattoli? Non si può parlare tranquillamente. In FM possiamo andare tutti. Aiuto, FM. Sono dei valori diversi da quelli che ci devono essere, per quello lui stava lavorando, ha detto, ha fatto un bel lavoro. Il vostro schiacciaio a testa, il vostro scillucci. Babà, mica siamo in FM. Anch'io sono FM. E allora cambia qualcosa, questa radio non sembra una radio, sembra un disco. Io. State per svegliare il cane che dorme, c'è la biglietta di Monaci. Claudio, aspetta, fai un passaggio lento che ti voglio sentire di radio. Cosa? Sei troppo forte di radio in FM così, Aspetta che ti stacco il processore. È tutta un'altra cuba. Il cantonello Pomponio, adesso, ma dove vuoi andare? Non arrivi da qui alla Landriga, cazzo, vuoi fare guerra, non che la fai la guerra. Con i fantasmi. Sì, domani. Ya lo sai. Ti ricordi che cosa mi hai chiesto una volta, muro di Berlino, quindi lo sai, uscia porco, quindi o qui o dove vuoi tu, ci vediamo. Rosa bianca e ci vediamo, così vediamo, facciamo schiacciare tutti. Come sei un fantasma che cammini, cazzo, sei troppo piccolo, non puoi competere, cazzo. Solo perché ti hanno dato questo lineare adesso vuoi fare il grande, cazzo. Non hai attrezzatura per competere. Sei troppo piccolo, cazzo, sei troppo piccolo. No, allora no, la cosa è diversa. Tu vedrai che non sono troppo piccolo. Te lo dico io. Poi mi dirai, c'avevo ragione io. Fabio, rispondi tu. Stiamo già cominciando con lo passo, lo crepo. Oi, ragazzi, fatemi mettere l'antenna sul tetto, così vi sento meglio, perché Antonella mi arriva a Santiago 1:30, Claudio mi arriva a Santiago quasi 2, cioè dovete capire che dovete fare qualcosa, ragazzi. Antonello, cazzo, ma perché vuoi iniziare di nuovo come in vecchi tempi? Cazzo? Te l'ho già spiegato, sei un fantasma che cammina. Sì, domani. Claudio, contami le caramelle sul lineare, dai. Io lineare, no, io lineare, io. Tutto spento qua, vi stavo ascoltando e mi avete svegliato il sonno, cazzo, perché quando sento queste cose poi mi si agitano le cose, capito? Fai da bravo, Antonio. Ti auguro vita lunga, ma fai da bravo. A me non mi cercare, che se no poi non ci piangi solo tu, no, ci piange tutto Sassari. E lo sai bene, no? Te l'ho sempre dimostrato. quindi fai da bravo, che sia un fantasma che cammina, ma non solo tu, no, tutti siete dei fantasmi che camminate. Ma la iola, la stai, boh, ci dovessi dire la verità, comunque sia. E da quello fino a un bel po' di tempo fa, adesso boh, ti sei svegliato a un certo punto, non lo so, guarda. C'è lui che sta provocando, vuole passare a tutti, vuole fare che cosa, ma non vuole andare. Sono un fantasma che cammina io. Grazie a Dio mi ha chiesto tanto tempo fa un aiuto. Quindi non lo so, vabbè, adesso abito qui, ma se fosse andato via il centro sarebbe stata una cosa diversa. Mica voglio fare guarda a te, che c'è da quello? Non ti sto parlando di quello a un certo punto. Non si può fare più, Antonio, io ti ho capito, non si può fare più come facevamo un tempo, il muro di Berlino e non passava lo straniero. Sono cambiati i tempi, non c'è più nessuno. La corrente costa, le radio costano, io c'ho tutto quello che serve, ma non ti conviene, lascia perdere, a futidini, è tutto tranquillo, è tutto sereno, tutti ci vogliamo bene, guarda a me, io sono tranquillo e sereno, non cerco nessuno, nessuno mi cerca perché sa se poi mi cercano, mi trovano, e poi divento monello come i vecchi tempi. Inizio a aprire gli armadi, a cacciare fuori le bestioline e poi succede un casino, Antonio. Lascia perdere, vivi sereno, che poi c'è di nuovo il coronavirus e succede un casino, ci ammazza tutti e non abbiamo più le radio neanche per parlare. E infatti, stavo parlando di quello, ero 4 giorni che non riuscivo a parlare con nessuno. A un certo punto boh, eri sul 10, dopodiché te ne vai sul 20, mi fai battimento 0, okay. un giorno va bene, 2, vabbè, forse una cosa già, a te tra la coincidenza, tutto lì, a battimento 0, il discorso è quello lì. A un certo punto mi sono incazzato, ho detto no, io così non ce la faccio più, prendiamolo tutto, vaffanculo, ho detto. Mi vendo tutto, perché ho detto così, anche su Facebook, mi vendo tutto a un certo punto. Se qualcuno ce l'ha con me, mi deve dire qual è il problema, il discorso è quello lì. Tutto quello. Cosa ho fatto di male? Non ho fatto niente di male, nella verità. Non ho fatto niente, non lo so. Però farmi abbattimento 0 tutti i giorni, e non sentivo più nessuno, tu sei Claudio, io colpevo, non ti sento, la verità, con gli attapparecchi, ma 3 giorni cazzo, allucinante non può essere, cazzo, una coincidenza, il discorso è quello lì, forse 4, 5, quelli che sono. A un certo punto mi sono armato anch'io, a un certo punto, quindi, e tu lo sai, quando mi amo io, torneremo come ci facevamo una volta, quando tu abitavi lì a Milano, io abitavo via di Zeddu, tutto lì. Allora, non lo voglio fare perché non mi interessa, non me ne frega niente, la verità. Tutto lì, il discorso è quello, se c'è qualcosa che non va, basta chiamarmi e dire, Antone, tu hai sbagliato, hai fatto quello, hai fatto quell'altro, basta, non lo so, altro non ti posso dire, io magari ho pensato quello lì, perché altrimenti non c'è una logica, la verità, Io, Antonio, scusa Fabio, non so chi c'è in questo canale, ma io non ti capisco con chi ce l'hai, se è successo qualcosa, se mi sono perso qualcosa, cioè a chi ti stai rivolgendo parlando in questa maniera? A me? Io non c'ho niente con te, lo sai benissimo, né con te né con nessuno, io non ho fatto niente, non so niente, non so di cosa stai parlando. Ti ripeto, ribadisco, non so cosa è successo, chi ce la possa avere con te, chi ce l'ha con te, se qualcuno ti ha fatto qualcosa e ti vuoi vendicare, non lo so, Antonè, non ti sto capendo, non so niente, assolutamente. Io ho sentito, ti ho sentito parlare di guerra, e quindi sono entrato così a fare una battuta, ma non so assolutamente di cosa stai parlando e a chi ti stai riferendo soprattutto, se ti stai riferendo a me o a qualcun altro, perché io sto scendendo dalle nuvole, non capisco con chi tu vuoi fare la guerra, non fammi capire, non lo so. Allora, sono stati 3 giorni in pratica che io entravo a baracchino e tu da 10 passi strano, immediatamente su 20 e c'è abbattimento zero, il discorso è questo, non è che sei liscio, sei attaccato, claro, lo sai che tu sei attaccato, quindi non c'è bisogno che lo dici tu, perché me la colgo io. Quindi a un certo punto è questo, dovrei sapere qual è il problema, se ce l'hai con me perché ho preso l'antenna per Giovanna eccetera eccetera, ho fatto parlare mio nipote, quello che, questo non lo so e basta, non so se sono questi i motivi, ma comunque sia sono stati, guarda, una settimana di inferno la verità da parte mia, quindi l'unica cosa che ho detto, guarda, pacattino, mollo tutto, vaffanculo e non me ne fate più un cazzo, a un certo punto, mollo tutto, non me ne frega più niente. Cioè se stava bicicciare a baracchino, a un certo punto non entro più. Mi piglio la macchinetta 50, quello che, me ne vado in giro, quello che, ho una moto. Non deve bere, Fabio, dille che non deve bere. Certo, il discorso è quello, per stare la baracchina, a bisticciare, facete coglionate, neanche 100, tutto lì e basta. Ma secondo me tu sei un po' compressato. Ti fai troppe seghe mentali, ma con me hai mai parlato, hai mai detto niente? Cioè sono io che devo parlare con te, semmai dovevi essere tu a dire a me cosa stava succedendo. Io non c'ho niente con te, ma stai scherzando. C'è stata una settimana dove stavamo facendo prove, perché ho acquistato molta roba, tanta roba, mi hanno dato tanta roba anche da vendere, quindi stavo facendo prove di microfoni, prove di radio diverse. Se c'è un questione nel canale 10, io non posso stare nel canale 10 a disturbare, e quindi mi spostavo sul 20 con Massimiliano, con Tino, con Marco, con Gianni, con qualcuno a fare delle prove. E basta, tutto qui il discorso, nessuno ti voleva praticamente disturbare o fare, capito? Nel modo più assoluto, assolutamente, ci mancherebbe altro, siamo stati sempre vicini di casa, non abbiamo mai avuto un problema e adesso mi stai tirando fuori queste cose. È chiaro che io ci sono stati giorni dove stavo provando diversi amplificatori, non uno, diversi, perché ne ho diversi. E quindi attaccavo, ma ti posso garantire che io manco sapevo che tu eri nel 10, assolutamente, manco sapevo che tu eri nel 10, perché quando io modulo nel 10 ci sei anche tu, e quando io mi sono spostato in quella circostanza nel canale 20, in quel contesto di prove, io manco sapevo che tu eri nel 10. Figurati quanto posso avercela con te, non ti compressare la vita, Antonè, non farti seghe mentali, te lo dico da persona grande come grande lo sei anche tu, lascia perdere stronzate. Quando c'è un problema e uno ha un disturbo, ci si sposta tutti assieme, si discute, si fa, non ci si compressa la vita come stai facendo tu, ma stai scherzando. Ma ti pare se io ho qualcosa da dirti, non te la dico come te l'ho sempre detta in 40 anni, penso che mi conosci bene, no? Non ho grossi problemi, né mentali né fisici, non temo nessuno, lo sai, quindi se devo affrontare una persona l'affronto faccia a faccia, non ho bisogno di mandarglielo a dire, perciò fai uno più uno, fatti una domanda e datti una risposta, Antonè, non è un discorso che tu puoi fare a dire perché Claudio mi stava splatterando per 3 giorni, io devo rompere il cazzo a tutto Sassari, non è un discorso, stai sereno e tranquillo che non è successo niente, la prossima volta quando succede una cosa del genere vieni nel canale dove sono io, ok, e le prove le fai assieme a me invece di stare a scoglionarti nel canale 10 o in un altro canale, non ce n'è problema, Antonio. Non è successo niente, e qua chiudo il discorso, ok? Quindi continuiamo a vivere sereni e tranquilli come stavamo vivendo, perché non è assolutamente successo niente, ok? Ok, no, va bene. L'altro giorno comunque, quando è stato Mirko, non lo sentivo per niente, perché quando gli ho detto guarda che è figlio di Giovanna, immediatamente le fate entrare, discorso è tutto lì. Vabbè, comunque sia, a un certo punto, vabbè, lo lascio passare come un coso, come se niente fosse, non c'è problema. Comunque sia, vabbè, adesso lasciamo passare tranquillo, così com'è. Sto vedendo via questo bambino, basta. D'accordo, facciamo come un, come se fosse successo niente. Aspetta, dai, posso? Vai, vai Fabio, ma non è successo niente, Antonio. A Mirko l'ho fatto entrare io, siccome stavo parlando con Riccardino, che sono anche amici di scuola, la prima cosa che ho fatto per farli parlare da soli, tutte e due, mi sono spostato in un altro canale, come ben sai. Vai Fabio, vai. E niente, durante le prove anch'io ho avuto bastonate, no? Però non puoi dire che la non te l'abbia detto. Sì Fabio, ma è una cosa che può succedere, perché nell'arco degli anni è sempre successo, ma siccome siamo quattro gatti e non pensavo di poter rompere le palle a nessuno con amplificatori, con radio diverse, con diverse potenze eccetera, l'unico che può appunto che posso danneggiare Antonello, ma in quel contesto lì io manco ci ho pensato ci fosse Antonello nel 10, altrimenti non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere, perché lui non l'ha mai fatto con me, devo essere sincero, quindi non posso fare queste cose se una persona con me è stata sempre corretta. Non capivo, pensavo volesse fare così come abbiamo sempre fatto negli anni passati, il muro di Berlino, con Antonello siamo sempre divertiti da quassù, capito? Non pensavo che il problema fossi io, ci mancherebbe altro, non stavo capendo, adesso me l'ha spiegato, ma è una cosa totalmente ignara di disturbo e di qualsiasi comportamento nei confronti di Antonello, ci mancherebbe altro, ma stai scherzando. Stai sereno Antonio, che non è successo niente, ti ripeto, la prossima volta che succede una cosa del genere, che tu sei nel 10 o nel 14, io sono nel canale 30 facendo delle prove, o nel 20, vieni nel mio canale e me lo dici, ok? E rimani con me a fare delle prove, come abbiamo sempre fatto, ma stai scherzando, non succedono queste cose tra me e te, può succedere tra altri, ma tra me e te non sono mai successe e non voglio che succedano. Se questo è il problema che tu hai avuto, che pensi che io ce l'abbia con te, non ci pensare neanche, non ti fare segmentare Antonio, perché lo sai che io ti ho sempre voluto bene e continuerò a volertene per quanto riguarda la radio, per quanto riguarda la persona che sei, perché sei una brava persona, quindi non mi permetterei mai di farti del danno o di recarti disturbi per cogliorate del genere, non ci pensare neanche minimamente, capito? Sì, infatti è passato quello la verità, 3 giorni, 3 volte, cioè una è normale, vabbè, la seconda potrebbe essere, mi sono sbagliato, la terza è una coincidenza, a un certo punto, quindi lì ho passato così la verità, quindi vabbè, adesso speriamo che sia una cosa normale, quindi vabbè, se no vabbè, ok, vabbè, facciamo stare così come stiamo le cose, d'accordo, facciamola così adesso, nel caso ci sia qualcosa che non va, lo dici, non c'è problema. Ciao. Dimmi Fabio. Ma posso venire a metterti la portante nel citofono? Cazzo ridi tu, tu ridi. Lo sai che stamattina hanno cambiato l'altoparlante del citofono? Perché dice che in un paio di giorni non si sentiva più niente. E io pure non sono mai entrato nel citofono. Ho entrato a qualche scarica elettrostatica, perché io sono collegato alla forza motrice dell'ascensore quando collego l'amplificatore grande, capito? Non vorrei che sia quello il danno. A me tocca dirti che non è la prima volta che sento interferenze nel citofono, in generale io lo faccio per lavoro, faccio impianti per lavoro, però anche nel palazzo di fronte al mio, così come nel mio palazzo, l'emittente locale qua a fianco a me, con un valvolare della RAI che era un po' datato e che stava un po' sbiellando, come dicono la Maddalena, io lo sentivo sul televisore spento, lo sentivo nel citofono di casa, lo sentivo nel citofono del palazzo di fronte, e un giorno il nostro citofono si è crepato e io sono sicuro che è venuto da lì, anche perché tu immaginati, prima di aprire il portone di uscire dal palazzo sentivi la musica e la musica usciva dal citofono, ma pulitami, è che non era stereo, ma per il resto è pulitissima. Argomento interessante, va bene, Antone, ti fa posto? Sì, abbastanza, ne ho 400 sotto al culo. Si sente, sì. Mi arrivi quanto Claudio? Mi arrivate tutti e due, Santiago 960 sulla stazione, e quando avete i picchi si muove la lancetta e sbatte sul rosso metà fianco. Ok, vabbè, dato ce l'hai tu, già lo sai, con la valvola, quindi non è un problema, quindi siamo a posto. Ok, sono contento che pompa. Chiudiamola qui e non apriamo neanche più questo discorso, dai, lascia perdere che non è assolutamente tutto successo niente. Se dovesse ricapitare vieni dove sono io, perché a volte, lo sai, ho bisogno di fare delle prove, ho un sacco di microfoni, un sacco di radio, un sacco di amplificatori, tra l'altro due non sono neanche miei, me li hanno dati da vendere. E quindi li stavo settando, facendo, provando, eccetera, eccetera. I miei già sono dentro l'armadio, quando attacco i miei già lo sentite, non ce n'è problema. Magari quelli sono anche vecchi, spuri e balle, poi verrà capito. Infatti già li ho tolti. C'ho il mio attaccato quando serve. Sì, Fabio, non so cosa sia successo, a me non ho mai detto niente, nulla, ho visto stamattina che c'erano i tecnici, stavano provando i citofoni e dice che è un paio di giorni che non si sentiva più la voce nel citofono. Ho detto boh, io non mi ha avvisato nessuno, no, a casa non è venuto nessuno, quindi nessuno ha suonato un paio di giorni, vabbè, non vorrei che sia il giorno che io ho attaccato quello grande da un kilowatt che è successo il casino. Comunque non me ne ha fatto un cazzo, ma le giambate si arrangiano. Va bene, ok, Antonè, tranquillo e sereno, ok? Io sto chiudendo perché domani devo alzare presto, che sono fuori Sassari. Ciao Fabio, buona continuazione a tutti, eccetera, eccetera. Ok, ci aggiorniamo domani. Vai Antonè. D'accordo, ok, non c'è problema, io vado per te, perché mi hai fatto tre giorni, mi hai fatto esasperare, non sentivo nessuno, non sentivo parlare con nessuno, dopodiché molto il baracchino e quindi parlavo con un muro a un certo punto, quindi... Cioè, se si parla tutti, non si parla uno solo, il discorso è quello lì.